altro era fare dietro, dietro i parcheggi, sì. C'è la zona un po' esotica. È molto, sì, è vero. Sembra più caldo. E farci tipo una zona dove si poteva fare disegno dal vero, metterci qualche statua per le generazioni prossime che magari vogliono fare disegno dal vero all'aperto. E dalla parte dal muro, sempre da dietro, farci la scritta liceo artistico così fatta a graffito. Anche vabbè, non ho avuto tempo di fare artistico, però è la stessa cosa. E all'interno della scritta immergerci nel verde per rendere la zona eufori, farci degli animali, fare tipo questa idea qua. Per ricordare un po' l'idea di un giardino. Però un'area all'aperto in disegno davvero con una semplice tettoia. Fare questa scritta con all'interno delle foglie, sì, fuori degli animaletti, sì, la pioggia. E poi pensa che bello, diciamo, veramente che rappresenti un po' la natura, sì, l'aspetto naturale, no? Sì, sì. Sei un po'. Quindi c'è questa esigenza di stare all'aperto in un luogo curato. Sì, curato. In mezzo alla natura, almeno quello, sì, che è emerso un po' da tutti. Quello mi sembra di riepilogarlo, sì, un po' in questo modo. Anche poi le persone che arrivano da fuori. Che... Ciao Laura. Sei un capitano tu? Ogni tanto giro, sì, adesso io faccio questo contest di graffiti a Aquiliano. Fanno anche dei... Aquiliano è sopra Savona. Se volete ci sono anche dei workshop che fanno questi ragazzi. C'è anche Fiodor che era nostro. Sì, e poi ci sono dei ragazzi. È diventato anche importante, penso che lavora... Mister Fiodor è quello che fa tipo le facce... È quello che fa gli elefantini, che c'è qui alla stazione, c'è anche la villa. La Farabelli, sì, la Farabelli, bellissima. Non segui su Instagram. Sì, oppure, non so, un altro si chiama Tiff, Lume, sono nella parte alta dell'Italia. Comunque se poi magari vi mandano un po' di cose.